Capitolo 8. Furore. Maggio e giugno 1950. Durante quella primavera la mia vita fu nelle sue mani. Già colma di amore, ogni giorno allargavo i confini della mia anima affinché potesse contenere ancora più amore di lui, rinunciando al possesso sicuro per ricevere nuovo amore, meraviglia, nuova ed eterna. Lo trovavo in tutto quello che toccavo, vedevo e conoscevo, finché tutto non fu più che riflesso e ombra di lui. Così mi aggrappavo con fervore allo splendido oggi facendo nell'eternità e mi giudicavo onesta, intelligente al tempo stesso in questo tentativo di regolare i conti col cielo. C'era molta tensione nell'aria. Molti colleghi di Mark, tutti corrispondenti stranieri, si erano riuniti a Hong Kong, che chiamavano crocicchio per l'Asia, e fessura nella cortina di bambù. Avevano un'espressione preoccupata. Lavoravano giorno e notte, discutevano notte e giorno. In continuazione li udivo disfare e trasformare il mondo all'ottavo piano del Gloucester Hotel. La mistica comunista veniva discussa, analizzata e respinta. Le cortine di ferro o di bambù si aprivano e si chiudevano con fracasso, si vincevano e si perdevano guerre del passato, del futuro e del presente. La grandezza e la meschinità, la banalità e il terrore del mondo rivivevano in gustosi aneddoti e scandalosi ricordi fra i whisky, gli aperitivi e i gin. In Cina, la campagna contro l'America aumentava di volume e di intensità. Il sequestro delle caserme americane a Pechino aveva provocato un amaro risentimento a Washington. Formosa, sussidiata e protetta da una flotta americana, costituiva una minaccia per il continente e la prova incontrovertibile, secondo Pechino, della volontà di guerra degli imperialisti. Insulti e denunce, minacce e interpretazioni tendenziose, stato di emergenza a Malacca e in Indocina, un rude, incivile, brutale mondo attanagliato dalla paura. Quando Mark partì nuovamente da Hong Kong per ragioni di lavoro, rimasi come sospesa in sogno, immersa nella consapevolezza di lui. Mi aspetterai ancora un poco, tornerò da te. Ti aspetterò e cercherò di rendermi migliore per te. Ed io per te. Andrai in Cina? Non lo so. Se le cose si calmeranno, forse. In tal caso ti aspetterò laggiù, nel mio cuore. Ti aspetterò sempre. Allora verrò da te in Cina, attraverso l'Himalaya. Ho sempre desiderato scalarla. Ridemmo, folli, sciocchi, invulnerabili nella nostra pazzia. Io avevo già dimenticato quello che l'inverno precedente avevo compreso, che cioè nessuno è invulnerabile alla suggestione ripetuta e continua, che io non ero diversa dagli altri né più forte, e che se fossi andata in Cina, un giorno avrei potuto considerare Marco una spia, un reazionario, un bugiardo e un ipocrita, e vedere il suo amore come una profanazione e un errore, come una forzata invasione della mia anima. Avrei potuto rinnegare, insultare e odiare quell'amore che mi aveva dato la vita, ma per il momento tutto questo mi sembrava puro nonsenso. L'amore per Mark era la sola cosa che non poteva essermi tolta. Lo amavo tanto. Così passai maggio e giugno, sonnambula a tutto quello che non ci riguardasse, vivendo di una privazione che era dolcissima felicità, mentre tutti gli altri non erano per me che simboli e ombre che si muovevano in un sogno. Mi domando quando Mark trovi il tempo di scrivere per il suo giornale, mi diceva scherzosamente James. Guarda un po' che cosa ti costringe a leggere. E mi mostrava un mucchio di lettere coperte di francobolli di posta aerea che mi aspettava sul tavolo dell'atrio. Un giorno il mio capufficio, attratto dal ticchettio eccezionalmente rapido della macchina, si chinò un attimo sopra le mie spalle per ritrarsi tosto mentre, in grande confusione, io strappavo dal rullo una lettera per Mark. Sentivo che i miei giorni di copiatrice di schedari sarebbero finiti presto. E così, fino a quella domenica soleggiata e incredibilmente calda in cui François Perrin e Anne Richards mi portarono con me a nuotare a Repulse Bay. La spiaggia era disseminata di bucce d'arancia, di sacchetti di carta, di bambini urlanti e di famiglie numerose che, disposte intorno alle fontane, formavano il classico gruppo fotografico. Per Perché mai le abitudini balneari dei cinesi assomigliano tanto a quelle degli americani? Chiese Anne. Anne era di ritorno da Formosa, dove aveva dovuto recarsi qualche settimana prima in seguito al telegramma del caporedattore di un giornale che ora l'aveva esentata dai suoi servigi. Investigate nascita spirito nuovo Formosa, ordinava il telegramma. Valutate possibilità riconquista continente da parte di Cina Libera. Urge resoconto, 1.000 parole. Dopo 3 settimane a Formosa, Ann aveva inviato il telegramma richiesto. Spiacente, vecchio spirito immutato, stop, riconquista no, 1.000 volte no. E così Ann e il giornale si erano lasciati. Ora Ann intendeva recarsi all'isola Tonga per lavorare, il che per lei significava dipingere. Ho sentito dire che la regina di Tonga è meravigliosa, regale dalla testa ai piedi. Mi piacerebbe farle un ritratto. Ho voglia di starmene sdraiata al sole a sentire il profumo dei fiori, cercando di dimenticare la Cina, se è possibile. Pranzammo tardi, sulla terrazza del Bay Hotel, e fu lì che un uomo calvo e grasso, seduto a un tavolo vicino, si chinò verso Ann. Avete sentito la novità, Ann? Chiese. No. La Corea, dichiarò l'americano. Il nord ha invaso il sud, hanno passato il 38° parallelo questa notte. Oh cielo! Esclamò Anne. È la guerra! Gli americani avanzano, continuò il grassone. Grazie al cielo ci siamo noi. Niente pacificazione, daremo una lezione a quei dannati russi. I giorni che seguirono mi appaiono avvolti nella nebbia. Un miscuglio di giubilo, di costernazione, di predizioni mi assaliva da ogni parte. Notai in alcuni un senso di sollievo per la chiarificazione giunta a spezzare la noia e la pace precaria. In altri, fronte aggrottata, incertezza e confusione, era il tempo delle decisioni, delle voci non confermate e degli oracoli. Ed era anche giunto il tempo dell'esodo da Hong Kong, poiché molti si rifugiavano a Formosa, ora che era protetta dalla 7ª flotta americana. Formosa è più sicura di Hong Kong. Gli americani combatteranno per noi, dicevano i ricchi cinesi. Confusione, furore, fumi e fiumi di parole. Il prezzo della gomma saliva vertiginosamente. Credete che durerà molto? Chiedevo ansiosamente a tutti. Risa, scherno. 2 settimane, poi saranno rispediti in Siberia. Questa è la terza guerra mondiale, dicevano altri. Ma io intendo parlare dei coreani, provai ad obiettare un paio di volte. Coreani? C'è lo zampino della Russia, dappertutto. Non hanno forse carri armati e cannoni russi? Adesso è venuto il momento di sganciare qualche bomba atomica su Mosca e anche su Pechino. Discorsi folli di irresponsabili, furore, confusione. I nostri nuovi turboreattori. I russi non hanno niente di simile. Col prezzo dell'oro aumentava il contrabbando. In una sola settimana si trovarono più persone con verghe d'oro nel corpo di quante se ne fossero scoperte in tutto il mese precedente. Ci vollero 3 giorni prima che i giornali comunisti di Hong Kong uscissero con la loro versione della verità, che spiegava come la Corea meridionale avesse invaso il settentrione. Senza attendere la deliberazione dell'ONU, la bestialità imperialistica americana ha invaso la Corea. Con questa brutale aggressione gli americani rivelano chiaramente il loro piano di conquista mondiale. E poiché dopo tutto i cinesi non sono idioti, persino gli abitanti della piccola città rimasero perplessi leggendo i giornali. Per la prima volta la loro fiducia nel nuovo governo fu scossa. 2 giorni fa abbiamo saputo che la Corea meridionale era stata invasa dai nordisti e adesso il nostro governo ci dice l'opposto. Perché il governo del nostro popolo dovrebbe mentirci? Ma ben presto questi dubbi vennero spazzati via dal fiero risentimento che l'interferenza dell'uomo bianco in suolo asiatico desta. Perché gli americani tentano di imporre la loro volontà in Corea? I coreani sono nostri fratelli. Non si può scindere un paese in due parti e ostacolarne il naturale desiderio di unità. Così molti in Cina erano contrari agli americani perché pensavano che non avessero il diritto di peggiorare le cose, interferendo nel continente asiatico. Ma io non potevo pensare che a Mark. Ti prego, Signore Dio, fa che Mark non vada in Corea. Ma naturalmente non poteva essere. 4 giorni più tardi il suo telegramma mi attendeva sul tavolino lucido dell'atrio. Su Yen sono inviato in Corea. Arriverò più avanti, domenica. Mark. Andai di nuovo all'aeroporto di Kai Tak con le gambe che mi tremavano ad attendere Mark. La vita è fatta di ripetizioni. E sapendo che un vestito nuovo avrebbe potuto sconcertarlo, rimisi quello vecchio. Un aereo giallo del corso addestramento piloti si inerpicava nel cielo mentre una cascata di nuvole si fermava a osservarlo, appoggiando i gomiti sulle colline nude. Poi l'argentea libellula che attendeva comparve, planando sulla massa del mare, abbassandosi e toccando infine terra. E ancora io mi nascosi nella sala d'aspetto, troppo debole, troppo sconvolta. E ancora un pilota venne ad avvertirmi che l'aeroplano era arrivato, ma questa volta non fui nemmeno in grado di ringraziarlo. Mi guardò in faccia e mi lasciò sola. Mark mi venne incontro direttamente, sapendo ormai dove trovarmi. Perché mai era sempre più bello di quanto non lo ricordassi. In quelle ultime 3 settimane aveva pensato che forse un giorno avrebbe potuto venire a me per sempre. Non parlammo di questa speranza, ma gliela leggevo in viso. Sei stata cara a venire su Yen. Salve, balbettai tremante. Così vuoi precipitarti in Corea? Non ne hai avuto abbastanza? Non sai mai resistere all'idea della guerra? Come stai? Mi chiese. Benissimo. Mi sentivo le gambe mancare. Presa da un senso di vertigine, cercai di fissare le mie scarpe. Mark portava la sua solita borsa gettata sulla spalla. Come sei bella, esclamò a un tratto con tanta dolcezza da farmi quasi violenza. Più piccola di quanto non ricordassi. Siedi. Sedemmo. Io guardavo la superficie lucida del tavolino e ci stampai una fila di impronte digitali, ostinata come una bambina, mentre egli mi fissava assorto, spietato, senza mai distogliere gli occhi. Così perdemmo l'autobus blu e avorio. Non c'erano taxi e allora ci avviammo a piedi lungo la strada soleggiata. Dopo un mezzo miglio circa, un giovane tedesco ci offrì un passaggio. Portava pantaloni azzurri americani di grossa tela e aveva capelli biondi e denti leggermente sporgenti. «Ho un'impresa di trasporti aerei da Hanoi a Hong Kong», ci spiegò sorridendo. «Io ero a Hanoi e a Saigon in febbraio», disse Mark. «Ah, siete negli affari?» chiese il tedesco. «No, sono soltanto un giornalista», rispose Mark. «Oh!» esclamò allora il giovane. «Ce ne sono sempre una quantità intorno alla Rue Catinat a Saigon». Mark mi sorrise, socchiudendo un pochino gli occhi azzurri, e citò ad alta voce un sonetto in francese che un giorno gli avevo scritto per scherzo sui giornalisti. Poi il tedesco mi squadrò da capo a piedi. «La vostra amica è graziosa e ha una meravigliosa carnagione», disse infine a Mark con franca approvazione parlando da uomo a uomo. «Sa parlare inglese?» «Oh no», rispose Mark in tono staccato, «ma lo sa scrivere un poco». Così me ne stetti zitta e tranquilla e poi seguì Mark nell'atrio dell'albergo. Lo attesi mentre andava a fissare una camera. «Stanza 509», mi disse avvicinandosi. «Ti aspetto fra 10 minuti». 10 minuti dopo lo raggiunsi mentre stava disfando la sua piccola valigia di fibra. Sul tavolo erano sparsi alcuni libri e qualche camicia e sul letto c'era la sua coperta portafortuna bianca e azzurra. Andai alla finestra. Nella stazione della ferrovia di Kowloon, proprio di fronte all'albergo, una piccola locomotiva emise qualche boccata di fumo e si avviò lentamente. Mark mi venne vicino. «Il treno per la Cina», disse. «Ormai non ci salirò più». Dopo rimanemmo a lungo sdraiati sul letto, tranquilli, inteneriti e tutti tremuli interiormente, ed egli mi mostrò i libri che avrebbe portato in Corea. Più tardi, mentre Mark faceva il bagno e si vestiva, chiamai Fiona al telefono. «Fiona, è arrivato Mark e parte domani. Rimango con lui questa notte». Udì Fiona inghiottire saliva, ma disse soltanto: «Va bene, Su Yen, fagli i miei saluti e quelli di James e buona fortuna in Corea». Ci portammo a Hong Kong col traghetto perché Mark voleva rivedere la nostra pietra e così salimmo, fino alla casa della saggezza, su per la scala di cemento e lungo il sentiero degli amanti. Mark si guardò intorno a lungo. Poi scendemmo in cerca di un taxi per salire al Peak. Il sentiero che vi gira intorno era immerso nel tramonto. Aveva piovuto un pochino mentre eravamo in taxi e ora due arcobaleni congiungevano Hong Kong al continente. Un arcobaleno solo porta sfortuna, ma due devono essere di buon augurio, disse Mark. Ci fermammo a osservare un francolino che sembrava fare la spola fra i due semicerchi multicolori e subito giunse l'ora di andare al Gloucester Hotel, sede dei corrispondenti stranieri. I giornalisti sono persone socievoli e cordiali e sentono sempre un irresistibile bisogno di trovarsi a bere con i colleghi per discutere e scambiarsi notizie preziose e si vivono in un'atmosfera di modesto splendore poiché possono iniziare il loro discorso con frasi di questo genere. MacArthur mi diceva che... Oppure, quando ho intervistato Mao Zedong, o ancora a Teheran la settimana scorsa, hanno l'impressione di essere i proprietari, sia pure temporanei, di vaste zone di un mondo libero. E sanno le cose come sono veramente, perché posseggono l'arte di spogliare gli avvenimenti dei loro fronzoli. Nel complesso, Mark era tra i meno brillanti, poiché parlava raramente. Raramente discuteva e non pontificava mai, e quando le storielle correvano e i portacenere sparivano sotto ai mucchi di mozziconi, egli sorrideva e a volte mi guardava, sussurrandomi ascolto e sto scodinzolando. Eccoci, dunque, all'ottavo piano del Gloucester Hotel, in mezzo a una folla di corrispondenti stranieri, molti dei quali destinati in Corea. Ci accolsero molto cordialmente. C'erano anche François Perrin e Anne. Ancora una volta ebbi modo di rendermi conto della sincerità, dell'idealismo e dell'integrità spirituale propria a coloro che esercitano la faticosa e austera professione del giornalismo. Li trovavo più equilibrati, meno esibizionisti e più tolleranti che non la gente della mia professione. Vero, qualcuno era afflitto da folie de grandeur, ma avevo visto troppa megalomania acuta fra i miei colleghi per essere disturbata da una lieve, tollerabile malattia. A forza di progresso stiamo andando indietro, diceva un giovane americano. Abbiamo fabbricato bombe sempre più grandi, aeroplani sempre più veloci, come se la nostra unica meta fosse quella di andare a bombardare una fabbrica colossale e in continuo sviluppo. Ora dovremo forse scoprire nuovamente che è il numero quello che conta, il coraggio individuale. Nessuno ha mai pensato a una guerra diversa, perché ogni nuova guerra riprende la linea interrotta dalla fine dell'ultima. Se i cinesi entreranno in questa faccenda coreana, vedremo uno strano fenomeno, disse l'esuberante François, uomo contro macchina. O, come dicono gli stessi cinesi, un mare di fuoco soffocato da un mare di uomini. Sembra pazzia, ma non lo è. Speriamo che la Cina non entri nel conflitto, ma se lo farà, si tratterà per lei di una guerra santa, di una crociata per liberare dall'imperialismo i deboli fratelli asiatici. Credo che i cinesi non vedano l'ora di mettersi alla prova. Una rivoluzione risveglia sempre l'ardore nazionale ed esce rafforzata da una guerra vittoriosa contro lo straniero. Quello che non capisco, disse un altro, è il perché i nordcoreani abbiano scelto questo momento per attaccare. Strategicamente non è certo favorevole. I campi di riso sono inondati, e ciò rende difficile l'avanzata dei carri armati. Evidentemente la Russia contava su un rapido colpo di sorpresa e non riesco a capire come mai il governo di Pechino sia stato preso tanto alla sprovvista. Ci sono voluti ben 3 giorni alla propaganda cinese per dare notizie alla stampa. E così via. Parole, parole, parole. Furore sulla terra, discussioni, principi e sentimenti inevitabilmente influenzati dall'interesse personale. A volte mi sembrava che nessuno si preoccupasse effettivamente dei coreani, ma soltanto del conflitto fra due vaste potenze economiche che si doveva decidere sul campo di battaglia coreano. Alcuni ritenevano che sarebbe durato a lungo, altri pensavano che fosse questione di giorni, ma nessuno sapeva nulla, nessuno sapeva quello che sarebbe accaduto. Mark sbadigliava, assonnato. François ci accompagnò al traghetto senza mai smettere di parlare di quelle cose che fanno vivere gli uomini e di quelle per cui gli uomini muoiono. Noi usiamo male le parole, spiegò. Diciamo che un uomo è morto per il suo ideale, mentre dovremmo invece dire che per il suo ideale è vissuto e che poi è morto. Secondo me la forza del comunismo sta nella sua capacità di dare al popolo l'illusione di uno scopo nella vita. Per questo il popolo è contento di morire, per l'affermazione dei propri ideali. Il faut avoir vécu pour savoir mourir. Il faut dire aux hommes pourquoi ils doivent se faire tuer. Col traghetto tornammo all'albergo e alla camera di Mark. Egli si addormentò immediatamente ed io rimasi a lungo immobile e felice di averlo fra le mie braccia, con la testa sulla mia spalla, mio ancora per poche ore. Poi anch'io mi addormentai e dormii tranquilla finché non lo udii muoversi e mormorare. Oh, quanto tempo si perde dormendo! Ma tosto fu l'alba. E bussarono alla porta perché il suo aeroplano partiva tra 2 ore. Andammo alla finestra. L'alba ammantava ogni cosa con la sua solita veste rosa e grigia, e il silenzio era rotto soltanto da qualche clacson sonnacchioso e dal primo treno che faceva rifornimento di carbone. Non siamo mai stati insieme un intero giorno e una notte. Non ci è mai stato concesso di pregustare un futuro insieme, o tu o io, dobbiamo sempre correre via, e invece desidero tanto stare con te. Ma abbiamo visto l'alba, spesso abbiamo visto l'alba insieme, l'ora migliore. Il cameriere ci portò del tè bollente e Mark chiuse la sua valigetta di fibra. Portava via con sé i nostri sigilli, quelli che avevamo fatto incidere da un'unica pietra nella primavera d'amore vissuta insieme. Non ti ho mai dato nulla, mi disse. Mi piacerebbe diventare famoso per poterti donare la mia fama. Credi che lo diventerò un giorno? Non lo so, ma se mi sposerai godrai certo di una facile notorietà. Mark rise immensamente divertito. Già il dottore Rosso, rammentò. Poi la valigia fu pronta e rimanemmo a lungo a fissarci prima di lasciare la stanza. Vorrei tanto essere libero per venire a te, egli sussurrò. E allora, per quella cecità in me che l'amore aveva tramutato in chiarezza, per l'altezza impossibile che era sua, sentii con stupore le mie labbra pronunciare la cosa più terribile e più difficile. Ma tu sei libero, e quindi non è necessario fare gesti di liberazione. Egli volse soltanto la testa e guardò fuori dalla finestra. Dolce come una nebbia, la luce dell'alba ci avvolgeva. In quell'istante compresi di averlo legato a me di un altro poco e riconobbi la futilità controproducente del mio gesto. Oh, saggia psiche, disse Mark a bassa voce con scherzosa tenerezza. Ben sai che se non trattieni il tuo amante, egli non ti lascerà mai. Scendemmo nell'ascensore e nell'atrio pieno di giornalisti affaccendati che correvano avanti e indietro, bevevano tè, firmavano assegni, raccoglievano le etichette per il bagaglio. Anche noi sedemmo a bere un'altra tazza di tè, interrotti di tanto in tanto dal cordiale saluto dei colleghi di Mark. Ma guarda, guarda chi si vede, Mark Elliott. Benissimo, d'ora in poi balleremo tutti insieme. Saluti, allegria, movimento. Sembrava che tutti i corrispondenti della Terra fossero in partenza per la Corea. Avremo modo di scrivere articoli sensazionali, ma la faccenda non mi va ugualmente, mormorò David, uno dei migliori amici di Mark. Mark si era allontanato per far pesare il suo bagaglio. David, dissi, questa guerra di Corea mi preoccupa, vi supplico, abbiate cura di voi e anche di Mark. Come no? Fece David. State tranquilla, piccola. Mark ritornò subito. È ora di andare, disse. Lo accompagnai fino all'ingresso dell'agenzia aerea e restammo per qualche istante a guardarci, a 4 metri di distanza l'uno dall'altra. Arrivederci, Diletta, disse Mark. Abbi cura di te fino al mio ritorno. Abbi cura di te, risposi. Ricorda, se ti dovesse accadere qualcosa, correresti il rischio di diventare un eroe. Egli rise di gusto. Sento ancora il suo riso basso e soffocato e lo rivedo mentre stringe fra le braccia la sua macchinetta da scrivere con la solita borsa ricamata sulla spalla. Oh, cielo, hai ragione, ammise. Farò in modo che questo non avvenga. Sarebbe spaventoso, ma se accadesse tu sapresti sgonfiare il pallone, vero? Certo, risposi allegramente. Stai tranquillo, lascia fare a me. E così si diresse verso l'autobus. L'autobus avorio e azzurro, ed io uscii dall'altra porta e mi fermai sul marciapiedi, sul lato opposto della strada. Vidi l'autobus stracarico di giornalisti e di bagagli girare pesantemente l'angolo e avviarsi in direzione dell'aeroporto di Kai Tak, dove attendeva l'aereo per Tokyo. Ero troppo lontana per distinguere le persone, così mi accontentai di seguire l'autobus con lo sguardo finché non fu più che un piccolo punto sulla strada. Poi ritornai all'ufficio e ai miei schedari. Ritagliai una cartina della Corea da un giornale cinese e l'attaccai con della carta gommata sopra il mio tavolo da lavoro per seguire la guerra.